una donna. Quando arrivai sul mercato dell'amore, e ne ho vedute, e ne ho passate di pelle, di male ce n'era molto, ma questo era il gioco. Fui offesa da parecchie cose, perché anch'io sono, lo sai, una creatura. Grazie a Dio che tutto passa presto, anche l'amore e poi pure l'affanno. Dov'è che sono le lacrime di ieri? Dov'è la neve dell'anno che è passato? Dov'è la neve dell'anno che passò? Certo, con gli anni è assai più facile scendere sul mercato dell'amore, dove gli abbracci a schiere ma il sentimento si fa straordinariamente più freddo quando si sciupa così. Per questa via ben presto sai tutto finisce, ma il gioco è questo, non te ne accorgi, ma non sai più amare. Grazie a Dio che tutto passa presto, anche l'amore e poi pure l'affanno. Dov'è che sono le lacrime di ieri? Dov'è la neve dell'anno che è passato? Dov'è la neve dell'anno che passò? Se impariamo anche il modo di agire, di vivere sulla fiera dell'amore e trasformare in qualche soldo il piacere, tanto facile non sarà mai, no.